I tuoi tratti disegnati dalla mano di un artista. La tua pelle fresca, canto musicista, senza strumenti, ma con parole. La mia regina splendi luna, splendi sole. Perché lei si avvicina, già la vedo, lentamente cammina verso me. Sai che il tuo profumo nell'aria leggia come una bomba echeggia. Con piacere invaso da ogni scheggia, la tua figura e la mia mente saccheggia. Il tuo nome dilaga, dentro di me vaga. Resto ore sui libri ma non paga. Luce illumina, camminiamo sulla stessa strada. E non c'è nada che tenga in ipnosi. Il resto del mondo s'addormenta, rimane intrappolata tra noi due la faccenda. Ora che m'accarezzi lenta, non c'è nient'altro che io senta. Comprenda, la storia è tanto bella quanto vera. Da quando sei entrata nella mia sfera, per me perenne primavera. Ed ogni sera ringrazio Dio che m'ha donato uno degli angeli della sua schiera. Accanto a me c'è un posto, e se lo vuoi non puoi occupare tu, baby. Saremo solo noi. Accanto a me c'è un posto, e se lo vuoi lo puoi occupare tu, baby. Saremo solo noi. È un puzzle con pezzi mancanti, tra sogni e rimpianti, rotti come vetri infranti, mezze verità e doppi sensi, ricordi, notti, insonni, con sigle ancora fumanti, spente da lacrime di diamanti, di occhi spenti, sguardi persi dentro il vuoto di un cuore spezzato che batte per lei e anche per quello di questo dannato. Dipendenza dalla tua pelle fresca, cosciente che in una vita trovi solo una donna perfetta. Credevo di avercela fatta, ma sono in crisi d'astinenza dei tuoi capelli e delle tue labbra. Il problema è lo stesso da te, la droga più pesante. Non vale una notte di sesso, l'equilibrio in un letto e il tuo profumo sempre addosso. Tormentato dal ricordo, torturato dal tuo sguardo, residuo di due anime che si stavano fondendo. Ti ho tenuto un posto qui accanto, vuoi sederti o resto solo a questo mondo? Accanto a me c'è un posto, e se lo vuoi tu puoi occupare tu, baby. Saremo solo noi. E se lo vuoi, lo puoi occupare tu, baby. Saremo solo noi. Accanto a me c'è un posto, e se lo vuoi, lo puoi occupare tu, baby. Saremo solo noi. Accanto a me c'è un posto, e se lo vuoi.